20 anni in 4 giorni. Da questa scommessa è nata un'assemblea di compagni e compagne uniti dal proposito di ricordare Dax per come ha vissuto e lottato, non solo per come ci ha lasciati, ucciso da infami lame fasciste il 16 marzo del 2003. Una chiamata che ha portato 10.000 persone in piazza a Milano all'insegna del binomio antifascismo e anticapitalismo. Il 16, giovedì 16, via Brioschi stracolma di gente sin dall'imbrunire. Aprono così le 4 giornate per Davide Cesare, un autentico teatro umano accolto alla proiezione del film Brucia ancora dentro, a pochi passi dal locale Tipota, dove ebbe inizio la notte nera di Milano. Il successivo corteo serale per le strade del Ticinese e l'omaggio di fuochi d'artificio all'arrivo in via Gola hanno scaldato i cuori e dato avvio nel migliore dei modi all'anniversario di lotta. Venerdì 17. La giornata si apre con l'occupazione di Area 161 in via Europa 4, zona nord Milano, il luogo in cui abbiamo collettivamente deciso di dare casa a parte delle iniziative in programma. Dopo un intenso lavoro di ripristino delle strutture, da pomeriggio a sera si sono susseguite 3 momenti di discussione che hanno coinvolto delegazioni da Francia, Spagna, Grecia e Germania, tavoli di lavoro sulla connessione tra antifascismo e lotte sociali e sulle dinamiche repressive nei confronti dei movimenti antifascisti, hanno condotto a una plenaria conclusiva che ha registrato circa 300 partecipanti, che si sono confrontati sull'opportunità di dare vita ad un'internazionale antifascista. Il 18, il corteo, partito da Piazzale Loreto, ha visto quasi 10.000 attiviste, compagni, studentesse e lavoratori scendere per le vie della città di Milano per un corteo nazionale che una volta tanto non ha solcato le vie della città vetrina, preferendo l'incontro con un quartiere periferico sottoposto a incalzanti processi di gentrificazione, ma non per questo domato. La manifestazione, partita da Piazzale Loreto, ha visto il protagonismo di studentesse e studenti contro l'alternanza scuola e lavoro, di soggettività liberanti, impegnate contro ogni discriminazione di genere, delle lotte sociali per il diritto all'abitare, dell'antifascismo sociale e del mutualismo per il diritto alla città, della critica alle Olimpiadi 2026, del contrasto alla repressione e del sindacalismo di base. Un affresco militante, compatto, libero da divisioni tra buoni e cattivi, che ha reso omaggio a Fausto e Iaio nell'anniversario della loro uccisione e ha animato per l'intero pomeriggio un quadrante di una città sempre più esclusiva, sempre più escludente. Il concerto serale presso Area 161 è stato un altro successo di partecipazione con migliaia di persone che hanno attraversato lo spazio nell'iniziativa a sostegno della campagna 130.000. Domenica 19 il Parco Lambra ha accolto la giornata di sport popolare. Vedere una buona parte di parco riempita da circa 500 persone, tra chi è passato per un saluto e chi è rimasto tutta la giornata, è stato veramente emozionante. Uno spazio pubblico in cui far convergere progetti e soggettività che praticano sport in modo antirazzista, anticapitalista e antisessista. Tornei ed allenamenti collettivi di 6 discipline tra sport di squadra, di contatto ed acrobatica aerea, con partecipazioni da tutta Italia e non solo, hanno rivendicato la pratica di uno sport altro rispetto alle dinamiche di mercificazione che si paleseranno più che mai nelle Olimpiadi invernali che anche Milano, insieme a Cortina, ospiterà nel 2026. Una partecipata assemblea sullo sport popolare, tenutasi a fine giornata, ha ben concluso il ventennale di commemorazione, con svariate proposte di reincontrarsi e la volontà di iniziare un percorso comune di auto-organizzazione ed autogestione dello sport, che vada in direzione ostinata e contraria a quello che ci propinano quotidianamente. Questa 4 giorni ha rappresentato un esempio di compattezza, di insensibilità al clima di tensione promosso dalla stampa nei giorni precedenti, di indisponibilità alle divisioni di comodo tra buoni e cattivi. Una costruzione niente affatto semplice o scontata, una proiezione che tracima le giornate di marzo e conferma il protagonismo di una nuova generazione di compagni e compagni della città. Nella notte ci guidano le stelle, con Dax, Fausto e Iaio nel cuore, al fianco di quanti pagano il prezzo della loro generosità perché nessuno e nessuna si senta lasciata indietro, con lo sguardo rivolto a un presente antifascista, con l'impegno per un futuro libero da guerra e capitalismo. Assemblea di Dax per il ventennale. Song. hurricane, honey. It's been another view. You look so pretty as you were riding along. You look so pretty as you were singing this song. I sing the song around, round, wheels going round, round, round. Down, up, pedals, down, up, down. But I gotta get across to the other side of town before the sun goes down. Questi erano i Mixturis, un gruppo punk rock, un gruppo rock australiano formatosi a Melbourne nel 1965. The Pushbike Song la troviamo all'interno del disco Pushbike Song, Stompin' e The Rainbow del 1970. Come ultima puntata con il nostro solito format, volevamo dedicare un po' di spazio allo sport popolare e dopo aver letto il comunicato sulla Quattro Giorni che è appena terminata, il ricordo di Davide De Cesare, Dax, non potevamo che pensare di farci una chiacchierata con un compagno della brigata Dax. Ciao, ci senti? Ciao, vi sento, grazie a tutti e a tutte per l'invito. Ciao, ciao, grazie. Guarda, niente, allora noi purtroppo andiamo un po' di fretta, che abbiamo avuto un'intervista abbastanza interessante sugli scali ferroviari, però comunque volevamo parlare appunto della brigata Dax, quindi ti chiediamo due parole su come nasce, la storia e il significato appunto di voi biancoverdi. Va bene, dai, allora partiamo dalla fine. Biancoverdi era il colore della squadra più storica di Rozzano, quindi avevamo deciso, proprio per il fatto che Dax era di Rozzano, di prendere questi colori. La brigata nasce nel 2005, un po' a seguire, diciamo, un po' sull'onda della nascita delle varie palestre popolari. Mancavano squadre di calcio e, visto che eravamo tutti amanti, nonché giocatori di scarso livello, abbiamo deciso di cimentarci. È andata bene, diciamo che secondo me nello sport anche resistere, quindi esistere già un successo, e se siamo qui a parlarne, quindi direi che è una cosa positiva. La squadra nacque proprio più che altro per far giocare compagni e amici, e adesso invece pochi lo sanno, però abbiamo avuto momenti in cui abbiamo avuto persone da tutti e cinque continenti, che insomma non è poco, ecco. Persone che sapevano giocare a calcio, soprattutto, aggiungerei. Beh, sicuramente sapevano bere la birra, questa è una cosa, diciamo, di tutti. A calcio, come te ben sai, insomma, il più forte di tutti ci ha lasciato, però la vita è anche questo. Sì, sì, ci arriviamo anche a parlare appunto di Rodrigo. Comunque, come dicevi tu, la brigata è nata insomma nel 2005, e una continuità c'è stata, perché anche la brigata Dax è stata una delle organizzatrici della giornata di sport popolare che si è tenuta il 19 marzo al Parco Lambro. Se ci vuoi dire al volo più o meno com'è andata, anche secondo te le percezioni che hai avuto vivendo quella giornata lì durante il ventennale per Davide. Guarda, bellissima giornata, ricca di vari sport, insomma, con molto partecipata. A me piace il fatto anche che si vede comunque, diciamo, vedere giocare con tanto furore a ognuno il proprio sport. Non mancano i momenti comunque aggregativi, risate, birra, cori. Secondo me sono bambini, perché secondo me, insomma, diciamo, compagni e compagne, se non vediamo i bambini nelle nostre iniziative, vuol dire che saremo dei brontosauri in via d'estinzione. Invece, vedendo già un po' siamo brontosauri, poi vedendo i bambini, e io comunque ero con mia figlia di un anno e mezzo, uno di 13 e uno di 18, e insomma è stata veramente secondo me una giornata che penso che dal punto di vista anche di feedback è stata molto positiva. Dobbiamo redarguire perché non ci hai mandato tuo figlio a giocare a rugby, e quando parli insomma di giocare con foca, noi abbiamo avuto, comunque registriamo all'attivo, un infortunio alla caviglia e ben 3 occhi neri e un collo stirato, quindi devo dire che con il rugby ce la siamo cavata. Però accendeva le torce. quelle non mancavano. E come dicevi tu, uno dei giocatori comunque più forti, che un paio di birrette insomma se le bevute e magari ce le beviamo anche noi domani, è Rodrigo, che ci ha lasciato proprio in questo mese qui, quindi se vogliamo dedicare anche un momento a Rodrigo e se vogliamo rilanciare il momento con cui voi della Brigata Dax, ma anche noi dello sport popolare, ma anche semplicemente compagni e compagne che lo hanno conosciuto insomma nel corso di questi anni, passeremo assieme appunto questo pomeriggio. Guarda, dico un po' di appuntamenti, insomma l'appuntamento è per le 13:30, quindi di sabato, a Rozzano, dietro il campo, in via Garibaldi, angolo via Solidarietà. Sarà, io non voglio chiamarlo un saluto, ma penso un momento di transizione della sua vita, no? Perché lui sarà sempre con noi, e ci sarà musica, ci sarà birra, ci saranno comunque sorrisi, secondo me, e abbiamo deciso di fare questo saluto grazie anche alla famiglia che l'ha appoggiato in modo alla Rodrigo. Quindi chi verrà non creda di arrivare a vedere una funzione triste o qualcosa, portate i bambini perché, come ho detto prima, anche in questi momenti noi dobbiamo differenziarci. Eh sì, noi i bambini non li porteremo i palloni da rugby, chissà che poi ecco. I bambini non ce li rubino o ce li buchino. Domani ti do Martino, allora, domani ti do Martino. Domani sì, dai, un paio di placcaggi li voglio ricevere da lui. Niente, dai, noi ti ringraziamo, ci scusiamo per insomma la chiacchierata un po' breve che ci siamo fatti. Però, ci mancherebbe, sempre piacere. Comunque, secondo noi era abbastanza importante, abbiamo poi dedicato anche settimana scorsa in puntata la canzone, l'inno della Brigata Dax degli Scassapanca, entusiasmo e vinceremos. Io ti saluto proprio con questa frase, entusiasmo e vinceremos, nonostante l'avversità e nonostante il vento ci provi sempre a soffiare e remare contro, noi siamo qua e ai nostri posti ci troverete, anche a giocare a calcio, anche a stare per un ultimo momento con un compagno che tanto ci ha dato. Noi ti direi ringraziamo sempre a questo punto. Grazie mille, caro. Ci vediamo a presto. Ciao, un saluto grosso a Rodrigo, sempre nei nostri cuori. Ciao, grazie. Ciao, grazie a voi.